il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di biodiversità. Siamo ormai abituati, come consumatori, ad alimentarci con i prodotti della terra che troviamo offerti nei negozi, sempre gli stessi e spesso presenti durante tutto l'anno. A volte ci si dimentica persino di quali siano realmente le verdure di stagione, se non per i prezzi che di norma calano quando il prodotto è nel periodo di maggiore abbondanza. Ma non c'è solo la stagionalità, quella che cambia dovrebbe anche essere la varietà. Ad esempio, negli scaffali si trovano non più di due o tre tipi di mele, sempre le stesse tutto l'anno. Eppure le varietà di mela sono tantissime, come potrà rendersi conto chi andrà a Mel dal 12 al 14 ottobre alla manifestazione Mele a Mel. Tuttavia, ragioni economiche e commerciali fanno sì che siano invece coltivati solo i semi registrati come varietà standard. Esistono anche delle associazioni e degli enti di ricerca che conservano la memoria storica delle piante di una volta e promuovono la conservazione della biodiversità, mentre gli stessi agricoltori custodiscono, coltivandoli, i semi e la sapienza legandole al territorio. Per saperne di più ne parliamo oggi con Silvia Ferro, esperta di produzioni e biologico, responsabile di Diversamente Bio. Silvia, che cosa sono le varietà standard? Le varietà standard sono delle varietà, delle tipi di piante registrate in un apposito elenco, anche qui nella nostra regione ne abbiamo alcune, che viene aggiornato periodicamente, circa ogni sei mesi, da chi produce i semi e chi li commercializza. Varietà standard sono così pensate per appunto la parte della commercializzazione, quindi devono essere facilmente soprattutto inscatolabili e trasportabili. Vi tolgo subito il dubbio, non viene selezionato il gusto tra i criteri interessanti per la commercializzazione. Altri criteri sono la vita di scaffale, la contemporaneità di produzione sulla pianta, cioè tutti ad esempio pomodori contemporaneamente maturi, stessa misura, stessa pezzatura, stesso tutto. E a noi, Diversamente Bio, questa cosa sta un po' stretta, un po' perché lavoriamo con delle marginalità, spesso, con persone che di solito sono escluse dalla società e che invece hanno dei talenti che scopriamo in campagna, in campo, grazie a degli educatori e a dei formatori che ci permettono di trovare dei lavori che sono dove queste persone sono fantastici e sviluppano la loro diversità in modo virtuoso, in modo prezioso stesso per l'azienda. Tornando ai semi, la parte che a noi interessa è la parte della biodiversità coltivata. Due aspetti quindi. La biodiversità coltivata è una delle cose più a rischio, insieme alla fertilità dei suoli, per tutti quelli che osservano un minimo d'agricoltura e la FAO, l'UNESCO, chiunque osserva quello che sta succedendo all'agricoltura. L'agricoltura dopo anni di agricoltura industriale non si regge più. Non bastano più neanche i fertilizzanti chimici, c'è bisogno di invertire la rotta. Questo lo stanno facendo da molti anni i produttori che almeno sono certificati biologici e sono produttori che coltivano bene prendendosi cura della loro terra, della fertilità della loro terra e quindi della biodiversità come sponda. L'agricoltura che vogliamo è quella che trova al suo interno le soluzioni, un'agricoltura quindi resiliente. Produrrà magari meno dell'agricoltura industriale, ma produrrà in modo costante. Nel senso, con un'annata come questa, riuscirebbe a trovare delle soluzioni per cui non perderemo tutto il raccolto, ma una parte l'avremo a disposizione. La produzione di cibo è uno dei temi forti, è uno dei problemi di questa nostra società, ma per il fatto che le merci circolano e non ce ne rendiamo conto, non abbiamo questa percezione quando andiamo al supermercato, non ci rendiamo conto che non siamo più autosufficienti nella produzione e non abbiamo facile accesso al cibo. In questo momento di sobrietà dei consumi, di ripensamento dei consumi, avere accesso al cibo può essere una chiave per rimpinguare il nostro reddito o avere comunque cibo salutare sulla nostra tavola a disposizione di tutti. Ecco, ma queste associazioni, questi enti che recuperano questi semi, quindi che cosa fanno sostanzialmente? Cioè recuperano questi semi e li tengono a disposizione? Ci sono due modalità di conservazione e di mantenimento dei semi. Una prima è quella della catalogo, diciamo, delle biodiversità, e viene fatto soprattutto presso i centri di ricerca agricoli. Ad esempio in Veneto ce ne sono parecchi, c'è ad esempio per i cereali una banca che ci invidia diverse parti del mondo, che è l'Istituto Strampelli di Lonigo in provincia di Vicenza, oppure c'è Veneto Agricoltura che sta mantenendo una serie di biodiversità. Questo però di solito si collega ad un mantenimento fuori dal campo, ad esempio sotto i ghiacci delle isole Svalbard, per appunto conservare la biodiversità, per non perderla. Questo però spesso è un limite per l'agricoltore o per il consumatore, perché viene slegato da quello che è la coltivazione nel campo e le sapienze legate a questo. Quello che invece fanno molti agricoltori è di coltivare in campo alcune varietà legate al territorio. Si parte di solito, per l'agricoltore biologico, si parte dalla cessione da qualche centro di ricerca agricola e poi con pazienza, mantenendo i semi, riproducendoli, si riesce ad arrivare a quantità che sono poi commerciabili e che legano di nuovo l'agricoltura al territorio. Fino adesso con i semi c'era il pacchetto completo e c'è per più dell'80% di quello che è la nostra razione quotidiana di cibo e quello che è la commercializzazione. La stragrande maggioranza funziona così: si adatta all'ambiente, ai semi, e quindi i semi vengono venduti con il pacchetto completo: seme, diserbante, pesticida, veleno, fitofarmaco, come certo. Volete chiamarlo. Non serve la sapienza dell'agricoltore, che viene annullata, e poi la parte, adesso c'è una nuova un nuovo versante, l'acquisto anche delle ditte farmaceutiche per poi curare gli effetti sulle persone che questi prodotti possono dare. Quindi si chiude il cerchio. Esatto, sì. Certo, non per chi poi consuma questi prodotti, che si trova invece ad incrementare questo tipo di sistema. Ecco, facciamo un attimo una breve pausa e torniamo tra qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di biodiversità e di semi con Silvia Ferro di Diversamente Bio. Parliamo anche quindi di questa realtà, che cosa intendete per Diversamente Bio? Diversamente Bio è nato come un percorso su due temi, così scherzando su quello che poteva essere un non prenderci troppo sul serio, visto che il tema della biodiversità e della diversità delle persone, la parte sociale dell'agricoltura, sono temi assolutamente marginali nei nostri discorsi, e questo aspetto per noi era importante invece rimetterlo in gioco. L'agricoltura biologica è assolutamente al centro, deve essere un'agricoltura schietta, un'agricoltura che non usa veleni, non usa pesticidi, non usa il più possibile, è indipendente da quello che può essere la chimica di sintesi, che trova delle soluzioni al suo interno. Quindi quello che si dice ora è agricoltura resiliente. Questo è un percorso, un cammino, per cui ci sono tante persone che vorrebbero avvicinarsi alla terra, coltivare, prendersi cura della terra, non perché stia male, ma perché rischia di desertificarsi, che non è da poco. E poi mi pare che l'agricoltura bio sia in espansione tra i coltivatori e oltre che tra appunto i consumatori. Soprattutto i nuovi rurali. Le persone che si avvicinano, che vogliono, scelgono di coltivare, ed è una scelta veramente intensa, piena di significato, quella di tornare a fare l'agricoltura adesso. È un lavoro di frontiera, è un lavoro anche socialmente utile, se si può dire, perché produci cibo, lo produci in modo sostenibile e lo produci, se lo produci con l'agricoltura biologica, e lo produci per persone con cui vuoi metterti in gioco, ci vuoi mettere la faccia. E quindi questo per me è una forma di assicurazione anche per il consumatore, che poi di solito non va solo a comprare i prodotti, ma vuole sapere come sono stati coltivati, chi li ha prodotti e dove vengono prodotti. Questi passaggi sono fondamentali soprattutto per le piccole aziende, che non possono permettersi un prezzo standard, un prezzo deciso da altri, e soprattutto non possono permettersi di non avere dei loro consumatori che li aiutano a condividere questo percorso. Ci sono sempre più, fortunatamente, comunità che sostengono l'agricoltura con piccoli gesti. Siccome comunque l'acquisto di una famiglia per un grande supermercato, per un passaggio grande, non ha significato nel budget, ma per un piccolo agricoltore sì, questa è una forma di comunità, che non vuol dire comunismo, che non vuol dire ismi di altro tipo, ma vuol dire responsabilità sociale, ma vuol dire un po' come le comunità di una volta cattoliche che si aiutavano. È una forma di attenzione all'altro che diventa attenzione ricaduta su me stesso. Ecco, per chi volesse approfondire un po' questi temi, le vostre iniziative, che cosa avete in programma nel prossimo periodo? Beh, adesso iniziamo le raccolte di radicchi, di cavoli, broccoli, eccetera, con gli agricoltori nei loro campi, e quindi chi vuole comprare da loro può benissimo tutti i sabati di sicuro andare da loro. E poi le prossime iniziative sono, ad esempio, questa domenica, il 7 ottobre, a Treviso, faremo uno scambio di semi autoprodotti insieme alla cooperativa Pace e Sviluppo, per l'occasione dell'apertura di un negozio ecobiosolidale, che non vuole essere solo un negozio. E poi il 17 ottobre, alla fine dei 15 giorni che iniziano oggi, quindi grazie per l'invito, 15 giorni per la biodiversità con Vandana Shiva e tutta una serie di persone che si occupano di mantenere e diffondere, innovare la biodiversità in diverse parti del mondo, anche qui in Italia. Il 17 ottobre faremo parlare direttamente le piante, anzi suoneremo con loro grazie a degli artisti che il 17 ottobre saranno alla sera al Parco Etnografico di Rubano, e faremo una cena molto semplice, molto sobria, in cui ascolteremo soprattutto. Bene, grazie Silvia per la tua disponibilità. Grazie a voi. Passiamo ora ad alcune notizie. Al Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri a Rosolina Mare, domenica 7 ottobre il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo organizza la quinta giornata dedicata ai frutti e ai colori dell'autunno. Sarà l'occasione per scoprire la ricchezza dei frutti e delle bacche delle numerose specie di alberi e arbusti che caratterizzano il bosco e la macchia. L'ingresso, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, è gratuito e i visitatori saranno accompagnati lungo i percorsi da guide esperte, mentre ai bambini saranno proposti specifici laboratori. Dal 12 al 14 ottobre si svolgerà a Padova il terzo Festival dei Consumatori, che nelle prime due edizioni era stato ospitato nelle città di Vicenza e Treviso. Convegni, dibattiti e approfondimenti, ma anche spettacoli e cabaret, si svolgeranno in fiera a Padova e nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Il festival vuole promuovere la conoscenza e le relazioni tra cittadini e mondo produttivo e vedrà la presenza delle associazioni dei consumatori a disposizione per consulenze su tematiche di interesse. Tra i convegni, sabato pomeriggio in fiera si parlerà di salute e sicurezza nel piatto e di giocattoli sicuri, mentre nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, domenica 15 alle ore 11, il tema sarà «Oltre il PIL, il benessere non è solo economia». Domenica 7 ottobre torna a Padova la manifestazione «El Biologico in Piazza». Le piazze dei signori dei frutti si animeranno di stand di produttori e associazioni che promuovono la cultura del biologico, assieme ad altre tante iniziative collaterali. Per tutto il mese di ottobre, mese della vista, negli oltre 500 agriturismi di Coldiretti Veneto sarà possibile scegliere un menù a prezzo fisso per sostenere l'iniziativa benefica promossa dalla Fondazione Banca degli Occhi a favore della ricerca contro le malattie oculari. Gli agricoltori serviranno nei loro locali quattro portate a base di tipicità locali che aiutano la vista, dalle carote ai mirtilli, dal kiwi al melograno. Saranno menù gustosi, dai sapori anche insoliti, allo scopo di aiutare gli ipovedenti. Con questo è tutto, la trasmissione del Quadrifoglio vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast scaricando la trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.